ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Buonasera, sono in linea? No, linea con la radio Bubù. Ma con chi cazzo deve essere in linea lei? Scusi, me lo spieghi. No, con chi deve... ho chiuso la radio. Ma scusi, ma con chi dovrebbe... Sta parlando con me, sono Cusani, qui c'è il prezzo. Ma perché non legge un libro? Perché non legge un libro? No, ma mi fa impazzire questa cosa qua. Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban? Sui diritti violati? Perché non legge? Aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse? A me non me ne frega un cazzo proprio. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. E uno dice: il ministro della salute cosa faceva quest'estate? Lavorava per attrezzare gli ospedali. Forse anche, però effettivamente non gli è riuscito bene. Però sicuramente una cosa gli è riuscita bene: il ministro della salute quest'estate ha scritto un libro. Speranza ha scritto un libro. Ma cosa c'è? C'è Speranza ha scritto un libro. Il Giordano può scrivere ha scritto un libro. Speranza ha scritto un libro. Ma com'è il titolo? Com'è il titolo, ragazzi? Datemi il titolo. Speranza c'è può il ministro un ha libro. Scritto un libro. Il ministro, ministro ma della ma salute. Ma che c'entra? Che il ministro della salute tutto questo tempo. Tutto questo tempo il ministro della salute. In questo periodo ha scritto un libro. Giordano, rapaci, maledetti. Voi mi state dicendo che il ministro della salute ha scritto un libro. Io, ragazzi, non ci posso. Il ministro della salute in carica ha scritto un libro. No, è possibilissimo. David, dimmi che non è vero, ti prego. No, non ho capito, ti prego, dimmi che non è vero. Dimmi che non è vero. Ti prego, mi inginocchio. Il ministro della salute ma Speranza in tutti libro? Questi mesi mi inginocchio. Tu hai scritto un libro con il culo in copertina e un ministro non può scrivere un libro sui temi di sua competenza? Ma di che parli? Il ministro della salute ha scritto un libro perché guariremo. Esce domani. Ma no, amici, ma perché una casa editrice come la nave di Teseo pubblica il tuo culo in copertina? Non perché il ministro della salute scrive un libro. Il ministro della salute ha avuto il tempo in tutti questi mesi, amici miei, di scrivere un libro ma dal non so, titolo Perché guariremo. Perché, meno male, perché guariremo? Ma c'è da toccarsi i coglioni, esce domani. Toccatevi tutti insieme i coglioni in questo momento. A pelle, domani esce il libro. Dove ha trovato il tempo? Perché questo titolo? Perché? Mi inginocchio davanti a te. Ti chiedo un attimo di razionalità. Ti chiedo un attimo di onestà intellettuale. Sì. No, non leggerò il libro di Speranza. No, va bene. È normale che un ministro in tutti questi mesi abbia scritto un libro. Ma non c'è nulla di male, certo. È normale. Perché racconta il suo diario, ma anche la sua riflessione. Non c'è più. Su come non guariremo. Ti ho chiesto un attimo di onestà intellettuale. Ti prego. Ti ho chiesto un attimo di onestà intellettuale. È normale che la casa editrice. Ma quello che io sono un privato. Pubblichi un buco del culo di un conduttore della radio della Confindustria. Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no? Cioè, nonostante decine di email di vaffanculo, ancora il podcast non funziona. Luciani, dici per piacere cosa dobbiamo fare per risolvere questo problema una volta per tutte. Niente. Te lo facciamo noi il sito, facciamo una colletta. Vogliamo fare una colletta? Questo facciamo una colletta. Invece di fare bene. Collette solamente per le puttane, facciamo una colletta per la zanzara e vediamo se questi servizi web possono cominciare a funzionare. E dai! Sweet. collegamento da Roma, David Parenzo. Buonasera, buonasera cari amici. 16.000 nuovi positivi con 170.392 tamponi. I morti purtroppo oggi sono 136, in terapia intensiva 66 ricoveri in più. A breve, il manutengolo di Brusaferro, il manutengolo di Speranza, anzi, il manutengolo di Speranza. A breve vi daremo nel dettaglio lo studio pubblicato sulla rivista Lancet. Giù. Seduto sul suo lettone, Alberto Gottardo. Mollemente adagiato, sempre più vicino ai 100 kg, 103. Mamma mia, 103. Una roba incredibile. Partivo da 114. Piccola mamma notizia, ragazzi, mamma piccola notizia mamma per tutti quegli animalisti del cazzo che ancora rompono i coglioni su sta storia dei cinghiali. Beh, uccisi. Giusto. Cremona, cinghiale attraversa la strada, schianto contro un'auto, morta una 21enne. Lucrezia Minnilli era al volante con accanto il fidanzato. Il ragazzo ha raccontato di un urto violento, poi la vettura si è capovolta. Questa è la realtà. È stata trovata poco distante la carcassa di questo ungulato. Allora io dico, con ragazzi, voi che volete i cinghiali in libertà per le città, siete responsabili di quello che è accaduto. Siete voi animalisti responsabili dell'uccisione di una ragazza e della morte di altre persone. Basta, non ho più niente da dire dopo questa cosa. Mandanti morali. Non ho più nulla da dire, tranne una cosa. Mi riferiscono dagli alti piani della televisione, chiamasi La 7, la televisione chiamasi La 7, che stanno per prendere dei provvedimenti disciplinari. Ma per cosa? E probabilmente anche delle sanzioni che riguardano lo stipendio, perché tanto quella è la cosa fondamentale, diciamo. Cosa su cui puntare spesso, no? Per quello che riguarda Parenzo, puntare al portafogli, questa è la cosa fondamentale. Ma chi siamo, Matti? Dopo le esternazioni da lui stesso oggi compiute durante il programma, ho commentato col giubilo di tutti i presenti: hanno violato anche standard etici della 7. Hai utilizzato la parola puttanate, la parola imbecilli e soprattutto la parola cazzo. Lo posso dire anch'io, no? Andiamo. No. L'unica trasmissione che trasmette gli interventi dei conduttori in altre trasmissioni. Vai. Aspetta. Quanti erano quelli che continuavano a dire: ma no, ma in fondo chi se ne frega? Ma sì, ma sono due esperti menagrami che dicono che il virus tornerà. Allora, siccome abbiamo sentito una tale quantità di puttanate, chiedo scusa, in diretta. E prima cosa, mi avvertono dall'alto, dagli alti piani, che ci saranno sanzioni. Ma che sanzioni di che cosa? Commissioni disciplinari, perché hai pronunciato la parola cazzo a un certo punto. Ma che c'entra? Tu sei là, tu sei là pagato dalla 7, dai. Devi dare l'esempio, non puoi andare a dire cazzo lo devi pronunciare qua. Ma cosa vuoi? Ma cazzo, mi ha fatto arrabbiare, ho detto che mi ha fatto arrabbiare, stavo parlando animatamente. Perché dall'altra parte si dice: eh no, non si può bloccare l'Italia. Ho capito, ma qualcosa fate, altrimenti il sindaco dice di no e si lamenta, il governatore dice non ci date poteri e si lamenta, lo Stato dice fate e nessuno fa un cazzo. No, ma scusami se mamma mia ragazzi, nessuno fa un cazzo. Vabbè, certo, provvedimenti disciplinari, no, Vittorione Sgarbi alla Camera, altro show, sentiamo. Sì. Nessuno si preoccupa di avere un cancro a 20 anni, è molto più raro che nell'età più matura. Nessuno si preoccupa di avere un infarto a 15 anni. Perché far preoccupare i giovani per quello che non li riguarda? È un'azione criminale, è un'azione criminale dell'informazione. L'informazione deve dire la verità, non può continuare a dare dei dati che seminano soltanto il terrore. È un mondo di gente che morirà di fame perché non può fare il mercatino di Natale, perché non può andare in un bar a bere dopo le 23. Ma com'è possibile che ci sia un rischio fino dalle 23 alle 5 o dalle 24 alle 5 non ci sia alle 22? Ma com'è possibile? La mascherina. Sì, la mascherina. Io purtroppo mi farò fare un certificato medico perché ho problemi di respirazione e sono uno di quelli che potrebbe non portarla secondo il DPCM. Le va bene? La porterò a lei, illustrissimo signor Fico. Detto questo, e poi lo riporti. Andiamo avanti che deve concludere. Ma scusa, se uno ha problemi respiratori, cazzo, si farà fare un certificato. Si farà fare un certificato che ha problemi respiratori. Ma non può fare. Ma non è che uno parla alla camera e mette la mascherina. Ma che roba è? Ex post. Se lo farà fare. Se lo farà fare ex ante. Oh, ragazzi, stanno crocifiggendo l'allenatore della nazionale, signor Mancini. Ma per lo voglio abbracciare fortissimo. Per una vignetta che ha condiviso sul suo profilo Instagram. Certo, no, sì. C'è una vignetta con un signore ricoverato in ospedale, cioè, con una infermiera, un assistente peraltro di colore. Questa qua, lui dice: hai idea, anzi lei, l'infermiera, hai idea di come ti sei ammalato? E lui dice: guardando il TG, guardando il TG, come ho preso il virus guardando il TG. Voleva chiaramente intendere, e ti arriva la querela, voleva chiaramente intendere che c'è del terrorismo in televisione. Guardando in onda era la prima vignetta. In onda non è più in onda, perché è difficile. Però dicono: vada a spiegarlo alle famiglie delle vittime di Covid che forse hanno guardato troppa TV. Ragazzi, primo, può darsi pure che fosse una battuta, eccetera eccetera, ma ragazzi, adesso non si può nemmeno più dire una cosa del genere, non si può più fare ironia sul virus che uno viene circondato dalle milizie del politicamente corretto parenziano e dintorni, non si può avere un'idea diversa. Ma si può dire che ha detto una cazzata o no? Voleva parlare del terrorismo televisivo. Lui è una persona del bollettino molto quotidiano, e allora è un influencer, e quindi diffondere notizie false, cioè che attraverso i TG la gente si ammala. Ma quali notizie? È una vignetta. Ma sono censurato, però. Ma tu sei lo stesso che condivideva il Je suis Charlie Hebdo. Quindi il diritto alla satira, adesso c'è il Minkul Pop. Ma nel giro di 3 anni è cambiato il mondo. È incredibile. Ma qualcuno dice che si dovrebbe dimettere addirittura. Ma ci sarà la libertà. Ma può esserci un po' di libertà in questo paese? Ma mi pare che ce ne sia tantissima. Dicono che ogni minuto, qua, ogni giorno. Oh, intanto ti avverto, caro David, che stanno battendo all'asta il bar di Hitler. $250,000 in America. Il bar di Hitler. Ma non è mai stato in America. Il bar Hitler. Di Hitler. Il bar dove è stato in America? Dentro un'imbarcazione. No, in America, in una casa d'asta in America. Ah, ecco, stanno battendo. Non è mai stato in America. Hitler, in una imbarcazione di uno yacht che è frequentato dal signor da Baffino. Dal signor Hitler, c'era un bar, va forma, credo, di. E lo stanno battendo. Di sfera. Sì, io qualcuno... fossi un miliardario americano, sì, lo comprerei. E poi lo distruggerei. Ma no, perché? Ma perché? Non ho capito qual è. Perché c'è un sacco di collezionisti di cose di Hitler, addirittura i cappelli di Hitler, i vestiti di Eva Braun. Fetici schifosi, ma è roba che vale innanzitutto, per cui è roba di... Ma nei musei, dovrebbe stare nei musei con delle didascalie. Cioè, tu dove proibiresti si le aste delle cose di Hitler? Non proibirei nulla, ovviamente, non proibisco, non voglio proibire nulla, però starebbero bene nei musei con la didascalia di quel che ha rappresentato quella maledetta divisa. Fermi là. Cioè, non funziona l'app, non funziona il sito, non funziona niente. Patetico. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Gianni, coglione, si chiude per evitare che i contagi fanno aumentare la pressione sulle terapie intensive e sui ricoveri, ma non l'hai ancora capito? Parezzo, aiutami, sono disperato, non ce la faccio più, non riesco a non ascoltare questa trasmissione di merda che fa schifo al cazzo sentire parlare questi mentecatti. Ti prego, Parenzo, fai qualcosa, alza il livello, comincia a parlare di qualcosa di leggermente più impegnativo, così nel giro di pochissimi giorni chiudono questa cagata, io sarò libero, non ce la faccio più. Cambia canale! Cambia canale! Povera la mia Italia, ma almeno... Che è successo? Andasse in un altro paese. A chi? Perché voi dovete sapere che la presenza del Vaticano in Italia ci condiziona e tanto, ahimè purtroppo, perché se non ci fosse la Santa Sede noi potremmo fare anche tante belle cose, coronare uno dei miei sogni più belli, e qual è, tassare le prostitute. Ma veramente è mio. Cioè, sono diventato spataliniano, scusami Gottardo, sono diventato spataliniano praticamente. Anzi, spatalino è diventato crucialiano, diciamo la verità. Qui ad Abano Terme conoscono bene Spatalino. In che senso? Non posso aggiungere altro. Ah, non vuoi aggiungere altro? No, non voglio aggiungere altro. Perché sennò ti becchi una querela, però stai insomma dicendo sostanzialmente che il nostro amico Spatalino, protagonista di una televisione locale. Sì, tu a vostro amico Spatalino l'ho mai conosciuto. Mio amico, io prima dell'entrata di voi padovani in questa disgraziata trasmissione, non avevo mai conosciuto Spatalino. Ma di persona mai, lo vedevo lì ogni tanto. Questa cosa ti eri perso. Allora, Spatalino se la prende con Papa Bergoglio per l'uscita sulle coppie gay, perché ha detto di essere favorevole alle coppie gay. Peraltro un'intervista che era vecchia del 2019, ma questo sti grandissimi cazzi. Il peggior Papa di sempre. Arridateci Papa Ratzinger. Finalmente ha gettato la maschera. Che ha fatto? Io non dico che sia il peggior Papa della storia. Ma perché parla così piano? Però una cosa sì la posso dire devo dire con il rigoroso rispetto che io possa e debba portare al Santo Padre. Che cosa? Però siamo in democrazia fino a prova contraria. E allora? Per me, per quelli che io ho conosciuto, è il peggior Papa. Ma che sembra che doveva dire chissà in che cosa? In senso assoluto! Ma sembra che doveva dire chissà che cosa, doveva dire che è il peggior Papa di sempre. Ma che gli è successo a Spatalino? Ma non batte più, non batte più. Aspetta, forse qui batte. Aspetta, forse batte qua. È impazzito. Ma perché Sua Santità lei non si adopera con lo stesso ardore, con lo stesso impegno per quelli che sono ridotti alla canna del gas? Chi? Batti. Pensionati Batti, che fanno fatica ad arrivare a fine mese. No, ecco, giovani quasi senza un lavoro in mezzo a una strada. Eccolo. No, Sua Santità, per lei esistono stranieri, migranti. Adesso ci mancava anche la ciliegina sulla torta. Chi? I gay. E batte. Il quadro di Picasso è completo. Allora ragazzi, un virologo Pregliasco oggi durante una trasmissione di Amici che si chiama One Day of non mi ricordo come, un giorno da pecora, da Spatalino a Pregliasco così, dice con grande attenzione si sente un cazzo, dice Pregliasco che bisogna astenersi dal sesso anche tra le coppie, cioè le coppie già fatte, già formate dentro la casa. Sì, perché passarsi la saliva, non so che cazzo ha detto. Anche all'interno della coppia c'è il rischio contagio. Apre gli asco! Io ripeto, chiunque di noi, diciamo la verità, incontri oggi una che non ha mai conosciuto, se la scopa, capito, sì, che sia uomo o donna, se la scopa senza, io non conosco una persona, una forse Poli, perché prima l'ha detto, che si faccia problemi nell'incontrare una persona sconosciuta e non scoparsela. Questa è la realtà. Oddio, se poi ti ammali, ma vaffanculo, ma a parte che ne sai che mi sono ammalato attraverso quella persona, prima non lo saprò mai. Comunque, di che parla? Non c'è nessuno oggi che io conosca che ha una vita sessualmente libera, che di fronte a una che incontra non se la scopa, uomo o maschio che sia, non ce n'è una di persona, ma è normale che sia così, altrimenti diventiamo dei morti viventi, allora è meglio darsi una bastonata in testa, dai. Invito, diciamo, purtroppo a quella che può essere drammaticamente un'astinenza, per non dire attività onanistiche, come cioè attività onanistiche, dice, non si sente una fava, attività onanistiche, meglio la masturbazione pure all'interno della coppia. Apre gli asco, Pippe. Dai, su, Marco da Palermo, vai. Allora, dimmi. Volevo dire, sono intervenuto per dirvi che siete indecenti. Sì, questo lo sapevamo che siamo indecenti. Indecenti ed è un complimento, però. Perché due cose si sapevano ad aprire. La prima che ci sarebbe stata la seconda ma ondata. Balla di la governo, noi facciamo la trasmissione alla radio, chiudere. Coglione. Aspetta, il ministro della salute che voi difendete. Noi difendiamo. Ma l'ho pigliato per il culo tutto il giorno ieri. Ma che dici? Anziché preoccuparsi di fare nuovi posti in terapia intensiva. Ma a me lo dici? Ma che vuoi? Anziché fare maggiori tamponi, scrive un libro. A questo punto facciamo scrivere un libro anche Tridico. col titolo prenderete la cassa integrazione, brutti stronzi. Questa è buona, questa è buona, ma non lo devi dire. Ma non lo devi dire a me, Marco. Peraltro lui che è responsabile. Insiste, ma che c'entriamo noi? Ma che c'entro io? Sono caldi. E tu e il tuo compare che lo difendete, noi difendiamo. Scusa Parenzo, dico una cosa a questo coglione, dai, allora, ti prego perché questo qua caro, la prima cosa che ti voglio dire senza che tu te ne abbia a male in alcun modo è che sei un disturbato, non tanto per le cose che hai detto, ma perché hai chiamato a questa trasmissione una persona normale. Questo è vero. Una persona normale non telefonerebbe mai in una trasmissione come questa, dove corre il rischio per il 90% dei casi di essere massacrato dai conduttori e cade nel rischio di essere pure querelato. Allora io non capisco perché telefonate, Luigi, perché dalla provincia di Latina. Aspetta, sentiamo Luigi. Sentiamo, è un'operazione Luigi, proprio contro, dimmi, il mio interesse. Non chiamate. Luigi, dimmi. Sì, no, la notizia che hai dato sui cinghiali. Questa è buona, Luigi. Questa è buona, buona, è bella notizia. Ma senti un po', sono meglio i cinghiali o i gatti? Ma che cazzo c'entra, imbecille? Ma che c'entra? Ma sei un cretino? Spaccato, ma tu lo fai apposta per farti così, per incazzare la gente. Aspetta, Luigi, mo ti richiamo, testa di cazzo. Aspetta, mo ti richiamo. Ma vattene, va, cretino, vai. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. La Zanzara. Guagliù, si unite alla telefono con la Zanzara da fallotto 00240024. Oppure se lui ti mandano i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Vabbè, Crux, professor Galli, stiamo per avere la battaglia di Milano. La battaglia di Milano. Figa, ma cosa ci vuole chiudere tutti i vecchi in casa, fratellino? La dottoressa, la signora Ornella Mariani mi ha fatto ingrifare come un canguro. La dottoressa Ornella Mariani è la nuova Oriana Fallaci. La nuova Oriana Fallaci. Intanto la Pellegrini, caro Gottardo, ha accompagnato la mamma durante la quarantena a fare il tampone. Sta talmente male che accompagna da infetta la madre fuori di casa. Ha sbagliato molto bene. Ha sbagliato. Che lo potesse fare, non lo so, non me ne frega un cazzo, guarda, di queste cose qui. Guarda, ma la comunicazione che no, ma più parla più di Pip, parla la Pellegrini. La Pellegrini in particolare, più parla la Pellegrini, più rivaluto i calciatori. Fa sembrare intelligenti alcuni calciatori. Beh, la Pellegrini. Adesso, questo no, però insomma ha sbagliato. Ibrahimovic non è mica andato fuori casa. Ibrahimovic non è andato fuori casa. Cristiano Ronaldo non è andato fuori casa. Soprattutto non hanno fatto, non hanno fatto il pianto greco. Ma robe da matti. Parte il settimo giorno di quarantena. Ho appena accompagnato mia mamma a fare il tampone. Sti cazzi. Bravo genio. A Verona non ha mai guidato, quindi l'ho accompagnata io. Ma se avevi i soldi per un NCC, non avevi 50 euro per un NCC? Pellegrini, sì, che allora, sarai milionario. Una delle notizie del giorno, come, ragazzi. Sai quanto costano le NCC adesso improvvisamente? Perché ogni tanto lo uso. Ma sei un vecchio straccione. Fino all'altro giorno ero uno straccione. Adesso vivi come Saddam Hussein in un albergo. Tutti i soldi dipendono da Confindustria. Sì, qua guarda, è pieno di soldi. A tua disposizione. Stipendi. Marisoni, dove sei? C'è da pagare a Gottardo. Marisoni, mortaccio. Però ladri, io, se fossi come Marisoni, direbbe quello, ladri. Io, se fossi Marisoni, dopo la notizia che tu gli hai dato la mano dopo aver fatto quelle cosacce nel bagnetto prima del suo studio, io anch'io non mi farei più trovare, francamente. Ha perfettamente ragione. Sgarbone, Edometre, Sgarbone che esordisce su Escort Advisor. Praticamente Sgarbi fa la pubblicità a un sito di puttane, a un sito di prostitute grandissimo, grande, cioè un deputato della Repubblica, sindaco, un sindaco fa il testimonial per un sito di prostituzione. Io lo abbraccio fortissimo perché è un genio assoluto. Un viaggio per Escort Advisor. E se la prende con Parenzo. Dovresti chiedergli danni, caro. Come? Parenzo. Adesso te lo faccio sentire. Mi cita in tutta la sua cosa. Aspetta, no. Senti. Sì, ma io sì, lo chiamalo. Ma come si senti, chiama Sgarbi? Chiama Sgarbi. No, non lo querelo perché sono amico dell'avvocato di Sgarbi. Quindi non lo querelo, però. Senti. Fare l'amore può prevedere l'amore. Sì. Ma spesso fai l'amore senza amore. Ed è lecito. Un moralista italiano, un po' per finta, un po' per ceglia, un po' per convinzione, che si chiama Parenzo, ma come considera i clienti delle prostitute, ovvero le persone che vanno a puttane, ovvero le persone che vanno in maniera più sofisticata con escort, dei miserabili. Certo. Ma come si permette? Milioni di persone. Ma ha pronunciato il mio nome in un contesto in cui mi dicono milioni di persone vanno su quel sito. Ma come si permette? Cioè, non lo querelo perché sono amicissimo anche dell'avvocato, del suo avvocato, però voglio dire, è un indennizzo, ci dovrà essere un indennizzo assolutamente. Se noi abbiamo stabilito questo principio fondamentale che elimina ogni miserabile, ogni moralità, ogni dignità, è questione, ho parlato di un grande scrittore come Simenon, ma possiamo ricordare Mitterrand, Kennedy, Juan Carlos, cioè presidenti, statisti, re, o Vittorio Emanuele II, possiamo ricordare Balthus, quindi la posizione moralistica di Parenzo è molto discutibile. Citato Parenzo all'interno di un sito di prostituzione, mamma questa mia, è la realtà. Ma è molto grave però questo. Definizione di prostituta e moglie, mantenuta, grandissimo Sgarbone, vai. Io appartengo alla categoria degli uomini che non ha mai pagato una donna. Naturalmente avviene poi che tu una donna la paghi, nel senso che le più pagate sono le mogli. Le prostitute si muovono in una dimensione molto singolare. La prostituta è una che la dà a molti per poco, la mantenuta è una che la dà a uno solo per moltissimo. Beh, pillole di saggezza, ma eravamo con Luigi dalla provincia di Latina, che credo sia la solita testa di cazzo. Luigi, dimmi. Testa di cazzo, vediamo chi è testa di cazzo. Dimmi, che cosa vuoi, dimmi. Certe notizie del cinghiale, che poi si presenta sempre con nomi diversi dalla stessa città. Sì, ma... lo sai, perché tu lo proprio per come perché cazzo, sei un criminale. Uno sei... come te, come fa a fare l'opinionista, capisci? Vabbè, quindi, allora, ragazzi, che vuoi, Luigi? Cosa vuoi? Dimmi. La notizia del cinghiale, no? Ma secondo te in Italia chi è più utile, un cinghiale o un gatto? Chi è più utile? Il cinghiale, il gatto è privilegiato dentro casa, le carezze. Il cinghiale è un animale produttivo. Ma che cazzo di notizie dai? Ma quale notizia? Ma quale notizia? Di che stai parlando? Ma di che cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Proprio un'altra cosa devo dire. Questo è cretino, questo qua è pure a favore dei cinghiali. La notte di quei 30.000 morti in Lombardia per le cazzo di notizie. 30.000 morti, no, guarda. Debbio, stronzo. Ma che dice questo? Ma questo è cretino. C'è molta rabbia. Senti le registrazioni delle ma questo 4, che dice sto cretino? Canavisa del debbio, sì, che baciavi i cinesi, vero. Stronzo. Ma che dici, baciavo i cinesi? Ma che c'entra? Quella sì, era prima della pandemia. Prima della pandemia l'abbiamo baciato. Colpavano i cinesi. Guarda, io non capisco perché non c'è un magistrato che vi denuncia te Sgarbi per istigazione a non rispettare le leggi. Ma tu devi andare a fare il culo. Devi andare a non rispettare le ma io uno stronzo di pubblico ministero possibile che non vi denuncia. Oh, ma incredibile, c'è di quello incredibile, non è incredibile, è stronzo, perché la maggior parte dei morti in Lombardia responsabilità Lombardia. È pure tua, ma pure mia, che cosa, ma che dici? È pure tua per le trasmissioni che hai fatto, ma questo è un mentecatto, ma questo è un mentecatto, è ancora insisti con quello che è da verificare, che è una stronzata, sì. Questo tu è un questo è un mentecatto, questo è un mentecatto. Via fa il sindaco a Roma, quello non vedo l'ora da incontrarlo. E che una volta che e che fai? Non ho capito, una volta che lo incontri che fai? No, che gli dico in faccia chi è sto buffone. Se buttasse sull'arte non fa politica. Ma perché? Non ho capito, qual è il problema? Istiga la gente a non portare la mascherina, ma te rendi conto? allora, ma non perché stai... c'è un pubblico ministero che lo denuncia? Perché non c'è un pubblico ministero che lo denuncia? Chi sei tu? Il manutengolo della magistratura? Chi sei? Uno spione? Un delatore? Sono uno che rispetta le leggi, ma capito? Ma tu sei stato in carcere. Che nemmeno mi conosci tu a me, no, non lo cazzo, so. La cosa sicura è che sei un mentecatto, su questo guarda, non c'è dubbio. Un mentecatto, io te l'ho detto pure l'altra volta, andiamo all'estero senza niente, vediamo chi campa, io e te, tu lo sai chi sei, tu sei il gatto, io sono il cane, il gatto selvatico, il gatto servio sono il gatto, il gatto selvatico campa. Ma come cazzo, ma come fa tua moglie a resistere? Tua moglie a resistere, come mi moglie? Mia moglie mi vuole un bene infinito, lo sa, Io ti auguro, ma tu passami tua moglie un attimo, passami un attimo tua moglie. La famiglia che ho io tu non te la puoi permettere. Ma passami tua moglie, passami al soprano tua moglie. Dove sta questa moglie? Dov'è che non esiste là intorno? C'è il vuoto. Sta già dormendo. Alle 7:25 dorme tua moglie. Alle 7:25. No, sta da noi, mangiamo alle 4 di pomeriggio. Alle 7 mia moglie non dorme. Ma cos'è? Ma sono orari nordici. Ma che roba? Tu non te la puoi permettere, stronzo. Ma che roba è? Orari nordici. Figli, tutti i lavoratori onesti mandano avanti questa nazione e fanno campare i papponi come te. Alle 4 di pomeriggio. Ma tu di che sei un pappo? Sì, io pranzo per me è la cena alle 4 di pomeriggio. Ma non rompere i coglioni. Ciao. Ma che cortato, ma che sta a fare? Vai a rubare di notte che c'è che pranzi alle 4 del pomeriggio. O fai il fornaio. O vai a rubare di notte, dai. Che hai detto, Cottardo? Se tu ceni alle 4 del pomeriggio. Perché c'è Sant'Antonio, Cottardo. Un bastone impregnato di burro e peperoncino e metterlo al culo. Bel linguaggio, evviva. Ciao, imbecille. Ciao. Federico da Reggio Emilia, vai. Grande Crucio. Dimmi, caro. Allora, intanto ti volevo ringraziare perché... Mi segnalano, ragazzi, siete molto gentili. Stazione Porta Nuova di Torino, il mio libro che campeggia, pubblicità sfegatata. Vai, Federico, Intanto ti volevo ringraziare perché sono riuscito a far squirtare la mia ragazza, grazie a te. Questo è molto buono. Usando il libro. Sono di sinistra. Lo squirting non è di destra né di sinistra. Ti volevo chiedere una cosa, devi stare al centro. Su questo non c'è dubbio. Stare al centro del corpo, certo. Allora. No, ti volevo chiedere perché dalla mia piccola esperienza personale ho notato che la mia amorosa ogni tanto quando squirta esce anche dalla pipì vera e propria, cioè si sente anche dall'odore. Non lo so, amico mio. Quindi, il problema è che allora, amico mio, è una vecchia questione che non possiamo chiarire in maniera definitiva. Non è pissing, cioè non è piscio. Un po' di piscio c'era. Ma basta andare a tastare, basta andare a odorare e uno si accorge facilmente che il piscio non c'entra niente, un'altra roba, è un misto di cose. Invece ti sbagli, deve solo se si svuota la vescica prima di farlo, sennò esce anche la piscina. Bisognerebbe avere sotto mano la tua fidanzata per sincerarsi di questa cosa. Io metterei a disposizione anche il letto di Abano Terme per questo grande esperimento. Scusami Federico, cosa c'è di più bello, ragazzi, nel provocare dei laghi? Bellissimo, è aperto un mondo. La mia amorosa ogni volta che facciamo sesso deve squirtare. Quando l'hai scoperto, Federico? Ma era la prima volta? Era la prima volta per la tua fidanzata o per te? Era la prima volta per me e per lei. Io ho capito, ma come hai fatto fatica? No, usando le mani, c'è una tecnica che vai dentro e poi torni indietro beccando la parte in alto della vagina. Lo sai che è semplicemente una questione di concentrazione della persona, cioè se la persona è particolarmente rilassata. No, ma non esiste, ci sono delle persone che non squirteranno mai, ma ci sono l'80% delle persone che lo possono fare. Questo ho capito dalla mia amica Maura Gigliotti. Allora, la questione è molto semplice. L'80% delle donne è in grado di squirtare, il 20% no, perché magari non ha quel tipo di accumulazione che deve servire a fare queste cose qua. Però quell'80% l'80% non è detto che lo facciano sempre. In alcuni casi è complicato, bisogna arrivare a un livello di concentrazione, non nel senso di concentrazione, sì, di rilassamento, di frequenza, anzi, no, di allora, rilassamento anche dei colpi. Sì, tu hai, sì, usato l'indice, il medio, il medio e l'anulare. Poi, il medio e l'anulare, il medio e l'anulare. Ottimo, ottimo, ottimo. Sei un gottardiano in questo, allora. Fermi tutti, torniamo tra poco, ragazzi. Lezione di squirting, riprenderemo tra poco su questo per schermo, carità, le lezioni di squirting più avanti, andando avanti, magari col Covid, con altri lockdown. Mamma mia. La Zanzara. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Ara. Dite a quel coglione di Parenzo che non sa un cazzo di quello che sono le conseguenze di queste piccole chiusure, di questi semi lockdown del cazzo fatto da un manipolo di stronzi che non hanno fatto niente per sei mesi se non grattarsi i coglioni e andare in giro a propanare puttanate, punto e basta. Da quanto passi, Parenzo? Da 15.000 a 10.000, sei pure ricco di famiglia, li mortacci tua. Ma che cazzo ne sai? Io c'ho il contratto che mi scade a dicembre, lavoro nella ristorazione, lo sai che cosa rischio? Rischio di passare da 2.000 a zero. Tu lo sai che cosa vuol dire? Non lo sai, parli di cose che non sai, ti metti in mezzo a persone di cui non sai un cazzo, quindi stai zitto, coacervo di stronzate, e vaffanculo a te e alla merda liquida che sta al governo. Merda liquida. E ti devo sentir dire, ma cerchiamo di capire, di analizzare con la signora capo. Con chi? Con una che studia il culo delle scimmie e con altro che studia il cazzo delle zanzare. Ma ti rendi conto della marea di stronzate che dici? Cerchiamo di capire. Lo sai che cosa devono o dovrebbero capire quelli che stanno al governo? Quella massa di coglioni stronzi usciti da un culo mal cacato. Dovrebbero capire che dovrebbero mandare i soldi domani mattina. Ecco. Bonifici domani, ecco, mattina. Dovrebbero arrivare i soldi sui conti delle persone domani mattina, se vogliono chiudere tutto. Prima mandi i soldi e poi chiudi tutto. Una volta che l'hai mandati, stronzo, tu e tutti quelli a cui vai appresso. C'è molta tensione, molta tensione. Ma io sono tensione d'accordo con questo signore che vanno ristorati, i ristoratori. Però tu non cioè, sei del popolo, c'è poco da fare. Il popolo ma lo come capisce. No? Ma che vuol dire sono del popolo? Certo, lavoro con una partita IVA, sono un precario. Fai come tutti gli altri. Non ti metti nei panni di quei tanti ristoratori, baristi. Ma non mi metto nei panni e come? Eccetera, eccetera. Tant'è che durante il lockdown ho anche ordinato a casa per far lavorare i ristoratori. Certo. Ma che vuol dire? Perché quando posso vado, quando posso vado. Come Maria Antonietta. E li conosco. Ho tanti amici che sono anche ristoratori anche a Padova, c'è un mio amico, non dirò di che ristorante proprietario, ma insomma, conosco il loro problema. Augusto da Bergamo, eccolo qua. Dimmi amico mio, dimmi. Ciao carissimo, ti ricordi della nostra problematica della prevenzione? Ah sì, come no, certo, tu sei quello straordinario, urologo di Bergamo del FON, che voleva curarsi il coronavirus con il FON, amico. Urologo. Ho avuto dei conforti da specialisti otorinolaringoiatri che mi hanno confermato questa possibilità. Cioè col FON, tu, col FON dentro il FON. Sotto? FON però con umidificatore. Sì, ma dove? Anche in gola questo qua? Anche in gola e anche nel culo, anche nel culo. Il culo che cazzo serve? Scusa, spiegami. Il culo, quelli che hanno rapporti omosessuali sicuramente devono prevenire. Mamma mia. Ma vediamo, scusami sta cosa, perché non mi ricordo bene questa vicenda, Augusto. Sì. Mi stai dicendo che quelli che hanno rapporti omosessuali possono, dopo il rapporto omosessuale, devono mettersi il FON nel culo. Che cosa devono fare? Cioè, scaldarsi, sì, almeno lo sfintere esterno. Almeno e perché? Ma non è questo il tema per cui sto chiamando. Perché si devono scaldare il suo sfintere interno, esterno? Perché se ci sono dei Covid li ammazzano, no? Naturalmente. Cioè, non ho capito. Se ci sono tracce di Covid vengono uccise con il fondo, vengono stecchiti. Calore. Ma vabbè, d'accordo. Tu perché ma cosa hai chiamato? Il tema non è questo, il tema ho chiamato perché mi stupisco che Crisanti non l'abbia mai detto. Perché l'OMS non ha mandato fuori il protocollo? Se il Covid, se il virus è presente nel liquido spermatico e nelle secrezioni urinali. Vabbè, tu perché cosa hai chiamato? si è detto che nel testicolo, il testicolo è un magazzino del virus, sì, ma nessuno ha ancora dimostrato se è presente o no nella secrezione, cioè, vaginale o nello sperma. E mi meraviglio che virologi come Burioni e altri, come la Spina per esempio, abbiano detto si suppone che ci sia, ma nessuno ha ancora fatto, cioè, vedere tu, i risultati. Tu stai dicendo che ancora non è chiaro, attenzione, che ancora non è chiaro se c'è il Covid nello sperma. Esatto. Esatto. Cioè, c'è ancora ma chi un se dubbio. Ne frega, però. Ma possiamo dire chi se ne frega in questo momento? Non mi pare questa una priorità. Ma è importantissima questa cosa qua. Siete fissati. Ma comunque, non solo, come ma gestire anche l'amico, l'amico che ha fatto il dottore sullo squirting qualche minuto fa, ha dimenticato che tutte le secrezioni, anche le vaginali, e per di più anche quelle dello sprizzo dello squirting, possono essere portatori non terrorizzare anche tu, tu sei urologo. E uno muore felice, esatto, dacci, se ne frega. Dacci la tua guida su come fare sesso in questo periodo. Io me ne fotto, ma dacci preservativo. Vabbè, quello però, d'accordo, vabbè, preservativo. Quello poi sempre. Quello Sgarbi dice di no, ma comunque preservativo, poi niente baci. Anche niente, niente rapporti promiscui orali, niente rapporti orali. Ma non ho capito una cosa. Masturbazioni e preservativo e basta. Ale. Cioè, niente baci. Scusami, e posizioni? Posizioni? Posizioni è quello che vuoi, basta non sia contatto bocca, sesso o l'inverso. Sì, o, ma o sesso promiscuo solamente con la tua compagna dunque? Esatto. Perché qualcuno la dice. La compagna deve essere sicura quando va a fare la spesa e quando rientra che non aveva avuto contatto. E perché tu invece l'uomo no, non ho capito, l'uomo è uguale. L'uomo non fa la spesa, scusa. Io non vado a fare la spesa. Vabbè, ho capito, tu non vai a fare la spesa, perché se fa la spesa, che un mammo va a fare la spesa. Ma un mammo, perché sono persona normale. Ma ho visto chiunque, che i centri commerciali si è dimostrato che sono i punti. Ma ho capito, adesso i centri commerciali, lei non va mai a fare la spesa? Io no. Non va, ma dove potrà, è cresciuto lei? Potrà. Cosa la servitù a casa che gliela porta? Me la moglie discreta da sola. Spiegami una cosa, Augusto un attimo, Augusto caro. Ma non ha mai fatto la spesa? Ma maschilista assoluto, perché non va a fare la spesa? Tu, ma perché è maschilista? Se non gli va di andare a fare la spesa, non va a fare la spesa. Però, ma è maschilista, mi pare. No, voglio chiedere una cosa ad Augusto, scusami un attimo, ma se tu incontrassi sul lavoro, non so dove, in ospedale, dove lavori, a casa, nel tuo studio, una che ti piace e te la vuoi scopare in questo periodo e non la conosci, la conosci per la prima volta, preservativo e evito il bacio. Sì. Ma te la fai però? Ah, certo. Ho capito, sì, ma però. Come c'è, cioè, l'hai sposato? Con la mascherina o no? No, ma senza bacio o con la mascherina, certo. Ma ho capito, amico mio, però sì, quando scopi sei a contatto comunque, cioè il virus passa lo stesso, dai. No, assolutamente no, se non rapporti orali invertiti o diretti, preservativo siamo a posto. Ma pure nei rapporti orali? No, io non ce li ho rapporti orali. Mi astengo. Però senta, Augusto, quella pubblicità delle patatine che diceva che se non ti lecchi le dita godi solo a metà, vale anche al tempo del Covid? Oppure cioè ci il cunnilingus, può essere una roba? Dobbiamo contattarci purtroppo a metà, anche nel sesso oggi come oggi. Vabbè. A contarci. Ciao, certo. Augusto, ti saluto, ciao. Carissimo, ciao. Questo secondo me non c'aveva un cazzo da fare stasera, cioè non c'aveva un cazzo come da tutti quelli che chiamano Agostino da Cosenza. Vai, Agostino da Cosenza, come il 99% allora, dimmi Agostino. Buonasera, dimmi a tutti. Io vorrei porre una domanda a Giuseppe. Sì, dimmi Agostino, dimmi. Allora, con la mia ragazza quando diciamo lei orgasma ha due, e quando lei orgasma, quando non lei ha viene, niente da fare, diciamo, un altro ignorante viene, che non ha nulla. Vabbè, da fare. Allora lei ha due reazioni diciamo diametralmente opposte. Vabbè, dunque insomma, vorrei capire perché, cioè, alcune volte si avvinghia, quasi ti leva le carni. Così è un sessuolo questa trasmissione. E altre volte si blocca. Però le gambe, cioè è così diverso. Cioè, non ho capito, qual è il punto? Cos'è che ti sconvolge? Che per la stessa cosa ci sono reazioni così diverse. Io trovo incredibile che le persone non vi parlate tra di voi, perché ne parla con Cruciani e non ne parla con la sua fidanzata? No, ma perché ritiene che questo sia il posto dove parlare di questa cosa? È normale che sulla domanda, ma io insomma mi fido delle conoscenze di Giuseppe Cruciani. Ma perché lei non chiama per chiedere novità sulla legge elettorale, sul DPS? Ma io la stima di Davide Parenzo, la stima di Parenzo, giusto, questa è importante. Le posso chiedere una cortesia? Non mi citi. Faccia così. Quando lei chiama per parlare di queste borghe, mi ignori, io come se non esistessi. Scusa, mi fa solo un regalo. Ma io mi definisco della maggioranza silenziosa. No, eccolo. Per favore, parli solo con Cruciani e Agostino. A me mi ignori, io per lei non esisto, Agostino, non ci sono. Qual è il problema? La sua ragazza squirta, sì o no? Sì, ricapitoliamo, molto, ecco, molto. E poi molto che significa? Quanti vi chiamo? Contenta che la dice in diretta. Questo varia, però il letto ne risente. Ecco, e allora qual è il punto? Qual è il problema? Spiegami, qual è il problema? Non ho capito bene. Io vorrei sapere proprio da Giuseppe Cruciani se c'è un perché di reazioni così diverse. Cioè, reazioni diverse quando? Quando squirta, no? Cioè, alcune volte che fa? Alcune volte ti leva la carne, no? Quello che ti aspetti, no? Cioè, ti leva la carne, che ti grazia. Ti si avvinghia. Altre volte? E si blocca, si serra. Ma squirta lo stesso? O non squirta? Sì, assolutamente. Quando Agostino, è avvenuto. Agostino, signora, questo è l'animo umano, l'animo femminile non è sempre lo stesso. Ciao, Agostino, ciao. Allora, ragazzi, io farei una seconda puntata perché aumento dei contagi, almeno così ci raccontano, la seconda ondata, panico, terrore in tutta Italia, informazione terroristica che non tiene conto di dati, sì, terroristica, spesso informazione terroristica, questo bollettino nato, quotidiano sul terrore. Terroristica. Io chiamerei, in alcuni casi, chiamerei il medico Bacco, te lo ricordi Pasquale Maria Bacco? Seminatore di balle, seminatore di fake news. Uno dei negazionisti italiani, forse il più forte negazionista italiano. Però è pazzesco, attaccalo invece di lisciargli il pelo. Pronto? Bacco? Chi è? Sono Cruciani. Ciao. Come andiamo, amico mio? Come andiamo? Sono amici. Sto bene, dimmi. Sempre grande libertà. Certo, ci mancherebbe altro. Che dici tu? Sempre viva la libertà. Viva la libertà di esprimere la propria, di parlare e dire le cose vere, soprattutto. Ma non di raccontare balle. Senti, Parenzo, io ho sempre detto solo ed esclusivamente la verità. Puttanate tecnicamente. Calma. Posso dire una cosa? Continuando ad uccidere le persone, adesso dobbiamo dirlo, è perché quando noi andiamo nel pronto soccorso, allora o se uno arriva con una malattia manifesta, cioè nel senso che un infarto così come dolore e tutto il resto, ma non stiamo dicendo una cosa che è molto più grave, cioè? La maggior parte degli infarti, delle embolie, degli ictus si manifestano in maniera assolutamente anomala. E allora? E quindi che significa? Che quando arrivo mi fanno il tampone, mi fanno perdere un sacco di tempo e io devo aspettare che arrivi il risultato del tampone e ci stiamo continuando a uccidere le persone. Cioè tu stai dicendo che siccome tutto è concentrato sul Covid c'è un sacco di gente che muore e non sa. Ma muoiono nel pronto soccorso, muoiono all'interno. Io continuo a dire che i medici sono gli unici che in questo momento, non come dice Parenzo che sono morti 181 persone, quelle persone sono morte perché tu hai detto che non c'è un medico morto innanzitutto. Non c'è un solo medico sano morto. Questo è un dato di fatto. Ma cosa dici? E soprattutto non ma che bestemmie dici? Ma che dici? Sono quelle persone che hanno richiamato. Signori, noi dobbiamo dire le cose come stanno. Ma allora non questa nuova, scusami, questa nuova, pagliaccio. Questa nuova ondata, 16.000 rotti adesso quelli che sono, eccetera, su 170.000 tamponi. Ma ondata di cosa? Ma dai, ma è una buffonata, ma continuiamo a fare tamponi, ma sono tutti asintomatici. Ma dove sono medici morti per il Covid? Roberto Stella, presidente dell'Ordine dei Medici di Varese. Giuseppe Lanati, pneumologo, Giuseppe Borghi, medico di medicina generale, Raffaele Giura, ex primario di pneumologia, Carlo Zavarit, ma ce ne ho a decine e decine e decine, coglione d'un coglione. Parenzo, io ti ho chiesto, te l'ho dato, ce l'hanno mandata 182 medici, 182 medici morti in Samarca la seconda volta. L'hai portata alla cartella clinica che voleva Bacca. L'hanno mandata. Senti, Cruciani, non puoi dare ragione a questo pagliaccio qua, pericolosissimo. Io vado da Filippo Anelli, che è il presidente nazionale dell'Ordine dei Medici, persona che non stimo minimamente, vado da lui e quando tu mi dai una cartella sanitaria di un soggetto sotto i 60 anni e presento la mia disiscrizione all'Ordine dei Medici. Che stupidaggine. La sto aspettando, non diciamo cazzate. Che stupidaggine. Questo è un terrorismo, la verità, sai qual è il terrorismo? La gente che continua ad essere uccisa nel pronto soccorso, che non fanno più chemioterapia. Dove ma sono le dici? Malattie serie? Dove scusami, sono le malattie serie? La seconda ondata, la seconda ondata non esiste secondo te, scusami. Ma quale seconda ondata? Ma dove sono? Ma questo è veramente un somaro. Se oggi non facessimo i tamponi, lo ripeto ancora una volta, questo che l'ho detto avremmo? Anch'io. Questo l'ho che detto cosa anch'io. Avremmo? Noi sapremmo di pochissime persone che fanno negli ospedali. Guardate che voi. Quindi gli asintomatici non sono pericolosi. Invece di invitare ma è incredibile. Sempre la solita gente. È incredibile. Che dice solo sciocchezze prezzolate. Ma è incredibile. Perché non, ma perché prezzolata da chi? Cioè l'unico libero noi. Saresti tu? L'unico libero io saresti sono, tu no, che dici delle stronzate che non hanno Talento, nessuna evidenza scientifica? La gente si sta svegliando, hanno capito che è tutta una sceneggiata. Ma quale gente si sta svegliando? Ma la gente, cioè la seconda gente ondata, è preoccupata, ma giustamente la seconda gente ondata, che la seconda ondata l'hanno creata loro, facendo questi tamponi farlocchi. Hanno il 27% di affidabilità. Il mondo, Cruciani, Parenzo, domani mattina si alza e decide se uscire o no, basandosi sul metodo meno attendibile del mondo. Cioè tu stai dicendo che c'è una addirittura una regia mondiale, tu addirittura dici che c'è una regia mondiale da questo punto di vista. La regia mondiale si chiama Organizzazione Mondiale della Sanità, che è finanziata senza ombra di dubbio, e lo sanno tutti, da tutte le lobby farmaceutiche e politiche, perché la verità non è scusa, è pericoloso Bacco secondo te, Parenzo? È pericoloso o no? Dillo una volta per tutte. Certo, sei più pericoloso tu che non lo incalzi dicendo che dice solo cazzate. Questo è pericoloso. Ci sono persone che si sono appese, far passare lui corda, come una persona normale è pericoloso. Far passare lui come una persona normale, questo è pericoloso. Una marea di soldi da tutte queste reti e da chi? Che di da soldi. Chi? Da perché chi che ti querelo? Da chi dignità, prendo soldi io che ti querelo? Da chi? Perché non mi fai parlare? Perché invece di invitare questa gente che paghi? Ma da chi prendo soldi? Vai avanti. Da chi? Da chi li prendo io? Questa da chi? Da chi li prendo? Dilla tutta. Da chi li prendo secondo da te? Così ti querello. Non ti pagano da tutte dai vari Mediaset e cose. Chi? Da chi è? No, Mediaset no. No, Mediaset no. Poi chi? Chi? Chi oggi mi paga? Avanti. La 7 è Confindustria. La 7 è Confindustria. Vai, vai, ti posso dire, Parenzo, abbiamo visto la tua faccia quando abbiamo parlato di Parenzo. I vaccini anti, i vaccini contro l'influenza. Certo, non io l'ho fatto l'altro giorno il vaccino anti-influenzale. L'ho fatto fare a tutta la mia famiglia. Se apri i libri di medicina, il vaccino va a stimolare il sistema immunitario. Io l'ho fatto l'altro giorno il vaccino. Però la cosa più incredibile è che tu dici a tutti i miei che figli tu dici che fare. La seconda ondata non esiste. Tu dici non che è tutta una buffonata. Non esiste, non è mai esistita. Cioè ci stanno pigliando allora, per il culo allora questa. Ma non glielo puoi consentire, però non è Parenzo. Un'opinione, è una stronzata. Cruciani glielo devi dire. Ma questa, trasmissione perché è libera, Parenzo è libera. Che dire libera? Parenzo, per colpa tua c'è gente che si sta suicidando perché tu sei un herpes zoster. Sei un herpes zoster! Sei un herpes zoster tu! Un herpes zoster! Che cazzo vuol dire? Che cazzo vuol dire? È vero, herpes. Che la gente che muore di altre herpes malattie zoster. In questo sei un herpes zoster tu! C'è gente che non fa più chemioterapia, c'è gente che non fa più diagnosi. Ma cosa c'è dici? Gente all'ospedale può questo. Arrivare una persona che ha forte ma cosa c'entra? Quello può ma per colpa del Covid, mica non per colpa di altro però che c'entra? A fare un tampone, un medico serio questa cosa non la deve fare. Io mi appello a tutti i medici. I medici, noi siamo gli unici che possiamo dire con chiarezza che questo è un virus che non è quello che ci stanno ma raccontando. Ma questo terrore, scusa, questo terrore, da chi parte questo terrore tutte secondo le strade, chiaramente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, però tutte le strade portano al vaccino. Tutte le strade portano ai vaccini. Parenzo è il primo che va in televisione e dice sei il primo, sei il primo dei terroristi, sei il primo dei terroristi. Parenzo, dice Bacco. Ma secondo te è normale obbligare le persone a fare i vaccini? Purtroppo non le hanno obbligate, Salame! Non le hanno obbligate! Purtroppo non le hanno obbligate! Stai dicendo rispondimi. Delle balle! Parenzo, purtroppo non hanno obbligato nessuno! nessuno a fare il vaccino antinfluenzale. Scusami, però a parte questo, ma non hai paura di prendertela? Non hai paura di prenderti il Covid? Non hai paura tu, Marco? Ma magari che lo prendo, io non prendo né mascherine e bacio tutti. E purtroppo baci non l'ho tutti? Presa ancora. Come baci tutti? Io non porto mascherine. Che vergogna, che vergogna. Ma questo è un medico. Ma cacciatelo! Cacciatelo questo! Cacciatelo! Mandatelo al circo a fare altro! Cacciate questo criminale! Altro che devi essere cacciato dall'ordine dei medici, tu! A pedate nel culo! Hai bisogno dei medici venduti! Anche a basso costo! E chi sarebbero i medici venduti? Chi sarebbero? Fai i nomi, coniglio! Fai i nomi! Di dare farmaci. Io il vaccino, prima di farlo devo sapere cosa c'è dentro. Fai i nomi dei medici venduti. Chi sono i venduti? Sono tutti quelli che accettano senza chiedere. Sono tutti quelli così che ti querelano. Che al pronto soccorso uno si può presentare con un lieve mal di testa. Nomi. Potrebbe non avere il tempo. Sì, ma voglio capire. Tu stai dicendo che adesso questa nuova emergenza, i lockdown servono, i coprifuoco servono o no? Non servono un cazzo. Cosa serve? Noi dobbiamo infettarci. Diciamo, ecco, noi dobbiamo infettarci. Sta già accadendo, non ti preoccupare. Ma tu sei il dottor Stralamore, non sei il dottor Bacco, sei il dottor Stralamore, anzi strano coglione, non Stralamore, dottor strano coglione. Che comunque viene lì e ti viene a dire, tu ti viene a raccontare solamente del vaccino. Tu sei un venduto dei vaccini. Io da te, perché ma tu hai detto, venduto da chi? Ma io ti querelo, ma venduto da chi? Ma venduto a chi? Ma venduto da chi? Ma vergognati. Mai in una televisione chiedere. Ma io lo ripeto ancora, fate il vaccino, i miei figli l'hanno fatto tutti. Mi dispiace però, scusate, un padre come te. Scusate, perché il vaccino quest'anno fa male, è una doppia stimolazione del sistema immunitario. Però scusa un attimo, ragazzi, l'idea di infestarci tutti, però alla fine non è male. Ma anche Boris Johnson non ci crede più ormai. Ma non è male infestarci tutti. Alla fine, dai, infestati tu. Chi sopravvive, chi crepa, crepa. Che dobbiamo fare? Proteggiamo. Ma chi deve crepare con un virus ridicolo? Tu chiediti perché quando sono stato alla Camera ho parlato di strage di Stato nel quella è la vergogna, infatti. Perché se dovesse invitare te alla Camera sarebbe come invitare Priebke alla Camera. Vergognati, speranza, una vergogna. Speranza sulla coscienza. Speranza ha fatto diventare i medici degli strumenti di morte. Nella prima volta da Io spero che Speranza ascolti la trasmissione e ti quereli. Noi abbiamo i pediatri che non visitano più, i medici di famiglia che non visitano più nelle terapie intensive. Ma tu mi stai confermando che giri baci senza mascherina, baci abbracci tutti senza mascherina? Lo farò anche stasera, domani, dopodomani, lo farò sempre. Domenica sono a Ravenna. E perché non esci di notte durante il coprifuoco? Perché non esci di notte allora? Fatti multare, esci di notte. Certo che voglio vedere se hanno il coraggio di multarmi. Ciao. Guarda che esiste una gerarchia delle fonti, Cruciani. Ciao Bacco. Baccato in testa, altro che Bacco. La Zanzara. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Cruciani, seghe libere per tutti. La sega è un antidepressivo. Andrebbe prescritta dal punto di vista medico. Sei giù di morale? Fatti una sega. Uno è per strada con la macchina, gli viene duro, si ferma, si fa una sega. Tutto è buono per stare meglio. È un atto di emancipazione totale maschile. Viva la sega! A Parenzo, a me mi sa che durante le pause del traffico da Burza dette sfondi di pippe. Giuseppe, è successo anche a me di segarmi al lavoro. Ero giovane, avevo 23 anni e lavoravo in un albergo e alla reception non c'era nessuno, fortunatamente ho messo le sexy cam e mi sono segato sotto la scrivania, e quindi se fosse arrivata della gente non me ne sarebbe fregato un cazzo, perché stavo arrapatissimo. Quindi sì, è successo anche a me. Ciao, d'abbraccio. Dark clouds seem to block out the sun. 1,000 roars. Procede con profitto l'opera di dissoluzione della Chiesa dall'interno, operata da Papa Bergoglio e dalla sua ortodossa fede nel Vangelo secondo Soros. La dissoluzione della Chiesa, che sta tradendo i propri principi e le proprie basi per aprirsi alla modernità del nuovo ordine erotico del panconsumismo sessuale. Questa è stupenda, David. Il nuovo ordine erotico del panconsumismo sessuale, che peraltro è anche il titolo di un suo libro, dunque marchetta su marchetta, ovviamente, no? È chiaro, vai. Auto a marchetta, non riesco più a sopportare. Senti, lo dice pure, aspetta. Il nuovo ordine erotico, come ho provato a scrivere nel mio libro, il nuovo ordine erotico del 2018, edito da Rizzoli, il nuovo ordine erotico prevede proprio la dissoluzione della famiglia, sostituita da monadi di consumo senza eticità, diremmo con Engel. Monadi. Il nuovo ordine erotico ormai è appoggiato pienamente anche dalla Chiesa Cattolica di Bergoglio e dal suo ateismo liquido. Una volta di più Bergoglio è una sorta di personaggio, di dramatis persona della mondializzazione capitalistica. Non vi è più traccia di Dio, di Cristo e di trascendenza nel suo discorso. Il suo è un discorso di puro sostegno dell'ordine mondialista, ateo e nichilista. La supercazzola fusariana sulle parole del Papa, sulle parole del Papa. Io andrei con Marco da Milano, poi Omar da Milano, Aniello Saleno, tanti altri. Caro David, la realtà è molto semplice. Tu hai rotto il cazzo su questa vicenda dei cinghiali. Te lo voglio ripetere in maniera molto chiara. Perché si poteva risolvere in un altro modo. No. Te lo dico con le parole di un signore. Che è quasi un la razionalità accudire e nutrire i cinghiali nelle aree urbane. Accudire e nutrire i cinghiali nelle aree urbane è frutto di una visione umanizzata degli animali selvatici. Che pone fine alla loro stessa vita libera. La soluzione praticata era l'unica possibile. Le istituzioni che avrebbero adottato. Ma non è i cinghiali vanno lasciati, non vanno umanizzati. Le istituzioni che hanno agito in quel modo lo hanno fatto correttamente e coerentemente con il protocollo vigente. La presenza in aree urbane di cinghiali è del tutto anomala. Gli animali rappresentano un pericolo perché possono causare incidenti stradali e trasmettere malattie all'uomo e agli altri animali. La realtà è questa. Voi avete un'idea dei cinghiali che è tutta una roba strana. Cinghialini andate a fare in culo. Chi la voleva adottare? Ma non è che uno adotta un cinghiale così a cazzo di cane, porca puttana. Ma perché no? Ma è bizzarro. Cioè, gli stessi animalisti che sono contro gli animali selvatici negli zoo, poi volevano il cinghiale nel parco giochi. Ma che roba è? Non solo cinghiale. Ma non solo, vogliono cinghiare nel parco giochi casalingo spesso. Cioè il parco giochi c'è nelle case. Meglio metterli in un giardino Ma uno che tiene un cinghiale a casa è contro i cinghiali. Magari un cinghiale domestico. Uno che si tiene un cinghiale a casa è contro la vita dei cinghiali. Andrebbe arrestato dagli animalisti. È un maiale, è un cinghiale. Deve vivere libero il cinghiale. E poi ammazzato per fare il sugo al cinghiale. Certo, ma anche lo spettatino. Comunque ragazzi, tornando ad altro, l'ATS di Milano sostiene, che credo che sia l'ASL, insomma il centro della sanità milanese, la gente si contagia in coda per fare il tampone. Cioè a questo siamo arrivati, alla gente che si contagia in coda per fare. No, ma magari è anche vero, ma vi rendete conto? Cioè uno si deve mettere in coda per fare il tampone. Ma io andate a fare in culo il tampone. Ma ci siamo preparati per 6 mesi per vedere le file per fare i tamponi. Le file per fare i tamponi. Questa è una cosa sulla quale Speranza puntare il ha dito. Scritto un libro. Ma che c'entra nel questo? Nel frattempo ha scritto un libro Speranza, invece di pensare. Però ha assunto 30.000 infermieri, ad esempio. Ma che assunto ancora con queste assunzioni? Ha assunto 30.000 infermieri. Ma chi se ne frega? Marco da Milano. Marco da Milano. Adesso te lo spiega il direttore dell'Espresso. Guarda, adesso che ce l'hai in linea. Qui in linea c'è Marco da Milano, te lo spiega. Il direttore dell'Espresso te lo spiega. Dimmi. No, non sono Marco da Milano, sono Marco che telefona da Milano. Smettila di rompere le palle. Caro Parenzo, vorrei chiedere questa cosa. Sì. Io lavoro come ristoratore, va bene? Allora, è da quando si parla della seconda ondata di Covid che noi, praticamente, se facciamo 4 coperti di sera... è tanto. Ieri c'erano da me 3 persone. Al di là di tutto, io sono molto preoccupato per i miei dipendenti. e succederà come è successo durante la prima ondata, che dovrò pagare io qualcosa ai miei dipendenti, perché prima che questi ricevano un aiuto da parte dello Stato, moriranno di fame. Allora io dico solo questa cosa, io sono d'accordissimo per chiudere tutto. Chiudiamo tutto. Sì, ma dacci esordi. Che... Certo, ecco, su questa ragione. Allora, no, però, ma subito. La grana, ma subito, la grana, subito. Immediatamente. Non immediatamente, forse io, domani, perché come certo, lei. Ha ragione, su questa ragione, certo. Caro David Parenzo, ma io ti do ragione su questo. Governo ragione, di merda, non sostengo nessun governo, valuto i provvedimenti quello via. Quello che io ti dico è che io posso anche chiudere. Fatemi chiudere tutto e sono contentissimo. Ma tu devi non avere un aiuto più comunque. Una lira di tasse, non pago più una lira di tasse, ma a coloro che ci governano, che hanno perso 6 mesi di tempo e sono quelli che ci governano, che non hanno fatto un cazzo e sono quelli che ci governano e quelli che governano anche Milano, i tuoi amici, quelli che leccano il culo a Sala, io va bene? No amici intanto, ma ti voglio dire un'altra cosa, mi parte, chiedi tu, ma io non ho nessuna parte, tu mi chiedi caro se devi essere indennizzato, certo che sì, che devi essere indennizzato, tu e tutti gli altri. Sono quelli della tua parte che fanno del terrorismo mediatico e che per esempio se vai sulla linea 2 di Milano, sulla linea 2, sulla linea rossa, allora? sono settimane che non c'è distanziamento sociale, avete tolto perfino che i tuoi amici di sinistra che governano questa città, a me non me ne frega nulla, la regione è governata da Fontana, io valuto via via i provvedimenti allora, che vengono fatti, non me ne frega niente della tua opinione, che cosa ti dico? Ma a me non me ne frega nulla, un cazzo della tua opinione, niente. Allora perché mi chiedi? E allora che cosa mi chiedi? No, Somaro, no, io non telefonare, ti chiedo proprio niente, lo sai che cosa ti dico? Che sei un poveraccio per il semplice motivo che tu pensi che chiudendo tutto alle 11 di sera, ma io non ho detto che bisogna chiudere tutto, tanto le persone se ne stanno in casa, ho detto che vanno indennizzati, allora, i ristoratori, e va trovata una soluzione chiudete per tutto, fermare il contagio tutto, che riguarda cacciate anche te, il riguarda cacciate anche te. Io non voglio pagare le tasse ad uno Stato, questo è giusto, questo ti vanno sospese le tasse, infatti con il ministro Speranza, e infatti ti vanno sospese le tasse, non c'è dubbio. Scrive un libro, magari scritto da un ghostwriter. Dai, ma su, deve scritto un libro, se il problema non è che uno ha scritto un libro. Invece, però, degno, dai, il ministro Speranza avrebbe dovuto fare il suo lavoro e io ciao Marco, ti abbraccio, ciao. La gente avvelenata è qui, registriamo. Perché sei tu che li fomenti inutilmente, non c'è che ha scritto un libro però. Non c'è cosa c'entra che ha scritto un libro? Non gliene frega niente a nessuno. Se uno vuole lo compra, se uno non vuole lo compra. Uno che fa il ministro. Se l'avessi fatto Salvini. Se l'avessi fatto Salvini quando era ministro dell'interno. Quando era ministro dell'interno. In una crisi come questa uscire da un libro però. Ma dov'è? Ma seriamente pensate che sia un problema uno che ha scritto un libro? Beh, non è una bella cosa. Perché sottrae del tempo della sua missione. Ma no, quello magari no. Quello no, però dai, non è bello. Omar ma da Milano. Non è bello uno che ha scritto un libro, scusa. Dai, scusa, lo sai meglio di te, sistema dai. Sanitario. Lo sai, il titolo già porta una sfiga enorme da toccarsi coglione a pelle. Ma non capisco perché dai. Uno che scrive Omar perché da Milano, qua, come ha in testa di riformare il sistema sanitario. Fammi parlare, che piano, è interessante. Però scusa Omar, allora, devi fare polemica su tutto, ma non sul libro, mi pare. Devi cambiare un po' le tue modalità di connessione, dai, dimmi. Perché non mi senti? Sì, adesso ti sento, ma insomma, dai. Allora, ascolta, stavo andando a cena, ok, esco di casa e indovina cosa mi becco sotto casa a Milano, una carovana di mignotte, già pronte a lavorare alle 8 di sera. Sì, da dove stai chiamando, Omar? Da dove stai Milano, chiamando? Hai Milano. Auricolari, hai viva voce, no, cosa hai? No, non c'è niente, sono telefono. Si sente il cazzo, dai, forza, dimmi. Ma come no? Minchia, pieno di puttane che incominciano a lavorare alle 8. Vabbè, ma questa non è una novità, cioè che no, lavori non sì che è una novità, sì che è una novità, perché si sono già organizzate in base ai DPCM. Richiamate questo stronzo, Cristian da Roma, dai. Cristian da Roma, vai, dimmi. Pronto? Dimmi, ecco, vedi la voce pulita, chiara. Dimmi, Cristian. Volevo dire a Parenzo che ci ha rotto il cazzo lui e i suoi amici che ci amministrano. Ancora con gli amici. Rotto davvero il cazzo. E ancora con gli amici. Ma perché? Che ci amministrano. Spiegami, ma di chi parli? Di Fontana? Allora, di chi parli? Aggredisci, David, aggredisci. Ma di chi parli? Di Fontana? Non ho capito. Quali sono gli amici? Le regioni, il comune, il governo? Di chi parli? Zingaretti in particolare. Di Zingaretti. Che c'entra Zingaretti adesso? Qual è il tuo problema col governatore? È dell'ultima stronzata di quello lì che non è manco laureato. Quindi l'università non sa manco che cazzo è. Che praticamente adesso hanno aumentato il numero degli studenti in remoto, siamo passati al 75%. Beh, sì, per forza, per evitare che tutti vadano contemporaneamente in autobus a scuola. Le aule sono vuote. Vabbè, Cristian, che vuoi? Oltre a protestare su questa cosa, che vuoi? Volevo dire che ci hanno rotto il cazzo. Poi tu che cosa protesti? Che non hai fatto manco la scuola dell'obbligo? Federico da Milano, fermi. Questo protesta che non vanno a scuola, non l'ha fatto la scuola lui. Dimmi. Salute dalla minoranza che odia il comitato ventotene. Comunque, prima di quello, lo stronzo che non definisco come collega che ha parlato prima, dice: quale? Il medico, l'imbecille. Bacco, sì. Esatto, Bacco, coglione. Sono 60. Tra 32 e 69 anni i medici morti, certo, e che c'è certo. Alcuni loni, Maddalena Passera, Fabio Rubino, 55 anni, Mario medico. Calongi, no, lui 55 dice, anni, lui dice un'altra... Lui dice un'altra cosa, dice non esiste un medico vergogna, senza dice. Altre patologie morto solo di Covid. Lui dice quello, Bacco. Non ma è che io dico... santi numi. Ma cazzo, ma se io lavoro sul territorio, ma non c'è un cazzo di medico. Nessuno che tu si fai il medico? Di base, peraltro. Di base, peraltro. Sei un medico? Sei un medico? Sì, sono un medico, sono sì. Un medico di base. Io sei lavoro un medico, sul territorio. Sei un medico ma chiunque sei un medico. Dopo 35 sì, sei un medico. Bravo. Sei un medico mezzo bestemmiatore. Fermi tutti. Sono di origine mantovana. Vai a cagare. Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Ma cazzo, perché non si caga in mano e non si piace schiaffa? Perché? La Zanzara. Giuseppe, una delle cose più stimolanti che esistano è l'anilingus, lo sai benissimo. Beh, sì, cosiddetto reaming. Non c'è dubbio. Gli incidenti possono anche capitare, l'unico modo per ridurre la probabilità di imprevisti è arrivare preparati, che è il motivo per cui ho scritto una vera e propria guida alla stimolazione orale dell'ano, per essere sicuri che quando ti troverai faccia a culo con il tuo o la tua amante, sì, saprete entrambi come comportarvi. Ebbene, oltre alla frontiera del pissing, anche il reaming. Se ne volete sapere qualcosa di più, amici miei, che dobbiamo fare? Maurizio da Genova è pronto ad esaudire ogni vostro latente, possente, inerente desiderio. È il numero uno, Maurizio da Genova. Strano che questo personaggio, no? Allora ragazzi, io ho provato Omar da Milano. Poi dobbiamo chiamare dobbiamo chiamare il turco, caro Parenzo, il turco. Dimmi. Cosa c'entra il turco oggi? Dimmi. Tu mi dici non è niente di nuovo. Come fai a dirmi non è niente di nuovo? Io non esco di casa alle 7, alle 8 e mi trovo le carovane di puttani sotto casa. Questo è nuovo. Come fai a dire che zona è? Evidentemente, ma scusa, continua a non sentirsi un cazzo. No, zona Loreto. Hanno iniziato prima perché alle 23 c'è il coprifuoco. Mi sembra evidente, bravissimo, no? Bravissimo. Minchia, poi mi viene a raccontare che queste persone qui non vanno legalizzate. Certo che vanno legalizzate. Tu trovami un altro settore in Italia che ha tutta questa voglia di lavorare, che è così flessibile ai DPCM. Cioè, Parenzo, dimmi qualcosa, fammi sentire. Ciao. Chiamiamo F, vai, vediamo come va la situazione della prostituzione. Vai, F Ball, chissà dov'è, proprio. Vai. Ma che chiude, ancora manca una vita. Porca miseria. Ehi, Efe? Ciao, come va? Tutto bene? Come andiamo, cara Efe? Come andiamo? Sono a Bologna, sto facendo un tour. Ti ho buttato giù il telefono perché ce l'avevo qui un avvocato. Ma figurati. Sì, avvocato, cioè un cliente avvocato. Sì, ma che, sì, stavo sì raccontando. Ciao Parenzo, come va? Hai letto buonasera, il libro di Cruciani? Sì, hai letto il libro di Cruciani? Non me l'ha ancora regalato. Ho chiamato la casa editrice. No, ma guarda, ho chiamato la casa editrice, me lo sono fatto spedire. Costa 19 euro. È giusto. Ho chiamato la casa editrice. Io ho comprato. Scusa un attimo, l'avvocato di prima, chi era? Uno col cazzo grosso o piccolo? Piccolo, è già entrato in casa, mi ha subito detto: guarda, io voglio essere scopato, solo che devi sapere che ho il buco stretto, quindi devi mettere un po' di crema. Subito, cioè, quando ce l'avevi la crema? Ce l'avevi la crema? Ovvio che sì, ogni giorno scopo tanti. Ma che cosa usi? Scusa, cosa usi? No, questa è una cosa molto importante. Luan, tu non lo sai cosa sia Luan? Sì, Luan, sì, Luan. Fa dei miracoli. Luan, però quello tubicino piccolo, guarda che con Luan puoi anche mettere un braccio dentro nel culo. Luan gel. Luan, non facciamo troppa pubblicità. Con Luan gel tu riesci ad aprire tutti i culi. Esattamente. Come lo svitoli? Un pochettino dopo 2-3 secondi fa subito. Dentro c'è la boccaina, quindi fa effetto un po' anestetizzante. Puoi mettere tutto dentro, anche il braccio, il piede, tutto. Lorenzo, perché non prendi un po' di Luan? Perché non mi serve. Mangio ogni giorno un po' di Luan. Non mi interessa e non mi serve. Non mi serve, francamente. Non faccio quell'utilizzo. Questo avvocato si è fatto inculare, mi sembra di capire. No, ma chi se frega. Posso. Voglio, grazie a te, lanciare un messaggio al nostro premier Conte. Come no? Adesso lo facciamo subito. Grazie a Conte, noi lavoriamo ancora perché ha chiuso i bar, ha chiuso le scuole, ha chiuso le piscine, palestro, tutto. Ancora però no. Le zoccole lavorano, sì, anche che sono aperte, no, la gente non va più, però le zoccole lavorano. Quindi grazie a questo. Ma sei sicura? Cioè, sei sicura che le zoccole ancora lavorano? Cioè, tu hai delle statistiche? Io lavoro. Ma la gente non ha paura di andare con una puttana senza che questa qua. Ma figurati, la gente ha paura, il problema è di andare in un ristorante perché dalla mattina alla sera dicono non bisogna andare nei posti affollati. E invece da una puttana la gente non ha paura. Da una puttana va e come? Ma figurati. Io lavoro, parente. Lavora, se è una testimonianza, lavora, significa che i clienti non hanno paura di andare con F-Ball, che credo che non abbia paura del virus, no? Io ti ho detto anche mesi fa, anche quando è cominciato quasi 8-9 mesi fa, ti ho detto, io mi curo con il cazzo contro il coronavirus. Com'è la cura del cazzo? Sei una delle persone più volgari che abbia mai conosciuto. Invece di prendere Remdesivir con la medicinale, sì, io prendo ogni giorno 2-3 cazzi, o in bocca o nel culo, o alle fine mi curo. Come vedi, sono stata con te sabato, tu hai dei sintomi, ci siamo visti. Attenzione, calma, cerchiamo di specificare. Qui si apre un'altra storia. Zitti un attimo, cerchiamo di chiarire. Qui si apre un'altra storia. Ho detto così, chissà che sono andata a Abono Terme, invitato, eravamo lì tante persone, abbiamo parlato, abbiamo fatto tutto per ore e ore, e credo che non sia successo nulla. Quindi in effetti io non faccio il tampone, cioè, inutile che vado in ospedale. Ma perché tu non hai mai fatto? Scusa, non hai fatto. Io faccio il tampone grazie ai miei clienti. Mi chiamano e mi dicono: io sto bene, non ti preoccupare, anche tu stai bene. Sì, amore, non ti preoccupare. Però non è un tampone quello da uno, un tampone verificato. Tutti i cazzi che scopo o succhio mi chiamano, prima o poi mi dicono: stai bene? Io dico: sto bene, tu sta bene. Ok, ma non è una cosa, non c'è niente di scientifico. Ma che roba è? Comunque, senti un attimo. Scusami. La mia teoria è: dopo 20.000 cazzi sono immuna. Va bene, ci siamo fin qua. E per proteggersi dal coronavirus bisogna scappare. Va bene, perfetto. Scusa, qualcuno dice, io non faccio tamponi perché i miei clienti lo fanno. E allora, siccome siamo stati a letto, se lui sta bene, anche io sto qualcuno bene. Qualcuno dice che effettivamente che il sesso fa aumentare le difese immunitarie. Però per te cosa cambia, per esempio, adesso sei a Bologna? Io prendo vitamine D, prendo ormoni femminili e alla fine questi ormoni mi tengono in piedi, mi aiutano ad andare avanti. Fai il tuo dovere. No, parente, scusami, io sono un esempio. Sei una sbarellata, mai avuto problemi di coronavirus, sei una svitata. Scusa un attimo, ma tu adesso sei a Bologna, d'accordo, ma quando torni in Lombardia ci sarà il coso, ci sarà il il coprifuoco. Per te, per te cosa cambia? Un cazzo, dato tu vai a letto a quell'ora. Non cambio nulla, perché io durante il giorno lavoro dopo le 11, 11 e mezza, in ogni modo vado a letto, magari dopo le 11, 11 e mezza, magari faccio chat rubat, come avevo detto, che accendo il computer, accendo il mio webcam e mi metto in linea con questo sito internazionale grandissimo e mi comincio a masturbare. Come fai? Ma che scena schifosa. Ah, come poi fai? Magari, ah, certo punto... Gigio, no, ho visto il video che hai imitato questa ragazza bellissima bionda che aveva il Gigio nel culo. Sì. Ce l'ho anch'io quello. Magari trovo uno in America che do il codice tutto tramite questa chatrobat con una bella mancia, mi fa anche vibrare il culo dopo le 11 di sera. Io mi divertivo, guarda, non hai idea. Scusa, dimmi una cosa, ma perché, perché non fai? Ti ho messo in casa perché così io guadagno ancora di più. Però, però scusami, F, se anche le videochiamate, se anche incazzata, se anche incazzata perché le prostitute non hanno assistenza, in sostanza. Cioè, le io sono incazzata perché tutta questa gente che non fanno altro che pensare immigrati o ci dicono ogni due giorni più tolleranza, più aiuti, bisogna accogliere, non hanno speso prostitute... una parola hanno speso una parola per più di 80.000 prostitute, 80.000 anche prostitute no, in mezzo a una strada, Parenzo, non possono prendere nulla, non possono prendere i 600 euro, nulla di nulla, dai. No, ma scusami. Comunque questa domanda io rivolgo a Parenzo, che adesso parlando seriamente, ma Parenzo, pare possibile che in tutti questi mesi, di 8-9 mesi, non è arrivato nulla, non hanno speso nemmeno per una le puttane parola per, non è che stiamo parlando per di escort, di prostitute, dai Parenzo, il reddito di cittadinanza prenderanno, perché non ha reddito, prendere reddito di cittadinanza, vabbè, un'altra cosa, scusami, un'altra cosa, ma tu ogni tanto fai degli sconti, no, quando uno c'ha il pisello un po' più adesso metto, adesso siccome su OnlyFans guadagno tanti soldi dove vendo le mie foto, domani o dopodomani scrivo sul mio sito personale, dirò: sei dotato, palestrato, bel ragazzo, chiamami, ti faccio mettere a prezzo, anzi, cioè, quanto deve essere di centimetri? Centimetri anzi, quanto deve essere per essere per andare gratis da, oppure un po' con uno sconto? Da 20 in su sconto oppure addirittura sconto. Gratis? Ma dipende il tipo, ovviamente, perché devo girare tanti video per il mio canale di OnlyFans dove guadagno tanti soldi. Ma quale video? Di guarda che ho fatto vedere Cruciani, io non ma sto vergogna, ma oltre i 20 centimetri, scusami sarà. Gottardo, oltre i 20 centimetri tu dunque sei escluso, no, caro Gottardo. Ragazzo, sì. Vuoi girare un video con me per il mio canale di OnlyFans? No, mandami le tue foto via WhatsApp. Ma non ci penso nel modo più assoluto. Non me ne frega nulla. Ti faccio divertire da matti, così ci guadagniamo insieme, tu fai una bella scopata e io guadagno dei soldini con il mio canale di OnlyFans. Ti va bene, ti metto chiamate e ti faccio anche diventare famoso. Io una massaggiata non ti interessa, non essere invidioso, Parenzo, sai che cazzo di 10 centimetri non Parenzo è timido. Parenzo è timido, grazie, sto bene così io. Sì, grazie signora, sto bene così io, la ringrazio molto per le sue attenzioni. Parenzo, signora, signora, piccolo uso le dita per la moglie. Sì, sto bene così, sto bene così. Grazie, sto bene così signora, grazie. Allora che dici Gottardo? Parenzo non super, però guarda, allora se lo apri anche i massaggi, allora io non ti scoperei mai, ti ho conosciuta sabato per la prima volta dal vivo, ma se lo apri anche per i massaggi io potrei venire a Bologna, potresti tu venire ad Abano nel lettone, sì certo. Sì, ma io ti faccio un massaggio. Io ho tre mani, anzi ho 11 dita, quindi faccio massaggio. 11 dita, no. Intendevo che io ti massaggio. Uno usa per il culo se vuoi. No. Nulla da fare. Con il cazzo il culo. Ciao Efe, ciao. La sporcacciona. La zanzara. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Ma la frontiera delle frontiere, la vetta delle vette, l'Everest del sesso è l'ass to mouth, dal culo alla bocca. Allora, cari ascoltatori della Zanzara, avrete sicuramente visto qualche porno, no? No. Rocco Siffredi, no, ad esempio, è uno dei più grandi e autorevoli esperti di questa pratica. Penetrare una lei o un lui, perché no? Sì. Nell'orifizio anale e dopodiché piazzarglielo in bocca e farselo succhiare. È uno degli atti più sconvolgenti, più slave, più corroboranti della storia della sessualità umana. Ebbene, ass to mouth, dal culo alla bocca, fratelli. Praticatelo e vedrete i risultati sono straordinari. Sbagliato. Sì, però posso dirti, questo signore non prevede una cosa, che nell'orifizio anale le cose vanno fatte con le protezioni, perché altrimenti è un disastro, ragazzi, dai, su. E come dicevano i cartoni animati una volta, non provatelo a casa, bambini, perché vi fate solo male. Mamma. Un conto è se lo fa un professionista. Davide da Ferrara. Un conto se lo fai Davide da Ferrara, vai. Un professionista. Dai, ma come? Davide. Buonasera, certo, certo. Dimmi, Davide, dimmi. Ciao. Allora, una domandina che volevo fare proprio a te, Cruciani. Allora, piangi. Mi viene da piangere quando sento queste cose. Mi viene da piangere. E sto piangendo. Un professionale, che ci vuole un professionista per fare queste porcherie. Ma quale professionista? E non ti metterei mica a fare le cose che fa. Ma non mi metto in alcun modo a fare queste cose. Ma che vuol dire un professionista? Un tecnocrate? Chi è uno del comitato tecnico? Ma che dite? Rocco Siffredi e le sue attrici hanno una preparazione che di solito una casalinga e un impiegato non hanno. Fare le cose che ci sono nei film porno, ma non c'è non c'è da fare nulla, ma non c'è neanche da trasmetterlo. Davide, più che altro io arrivo ancora prima. Una premessa, volevo fare una domanda con una premessa. Sì, allora, premessa: è giustissimo che lo Stato aiuti i negozianti, i ristoratori? Ti credo, se uno chiude, Una domanda però ti faccio a te proprio, Cruciani: se questo ristoratore, qualsiasi sia un proprietario, deve chiudere perché tocchiamo ferro, c'è un lockdown, e però ha delle cartelle esattoriali da pagare. Ma non me ne frega un cazzo, quella è un'altra partita, è un'altra storia. Impara a far finire la gente. Dai, forza, su, che non ho voglia manco di combattere con questo ristoratore. E allora che c'è? È giusto che questa persona diano i soldi. Ma certo che è giusto! Ma cosa vuol dire? Non è che se c'è le cartelle esattoriali sia per forza un delinquente. Quindi, allora, lui è debitore nei confronti dello Stato, però si attacca alla testa dello Stato. Allora, una cosa è che sei un evasore fiscale conclamato con dei processi. Ma non potete catalogare tutti come dei delinquenti. Ti devi vergognare. Tu farai l'impiegato. Tu sei un impiegato a stipendio, sicuro. Che se uno non fa uno scontrino, dopo però vuole anche andare all'ospedale e essere curato bene, se non paga le tasse. Non c'entra niente, non c'entra nulla, invece nulla. Ciao. Ragazzi, io sulle parole del Papa che è a favore delle coppie omosessuali, parole incredibili, primo perché non deve rompere i coglioni sulle cose che riguardano le leggi, secondo me. Facesse le leggi al Vaticano, sono favorevole alla legge sulle unioni civili. Beh, ma bravo, sti grandissimi è una cazzi. Rivoluzione però, una veramente. Io chiamerei un esponente dell'estremismo cattolico italiano, di Christus Rex, si chiama Castagna, tizio incredibile. Pronto? Sì, Castagna? Chi parla? Sono Cruciani, come stai? Ciao Cruciani, bene. Senti, volevo chiederti una cosa sul Papa, su questa uscita del Papa. Adesso non so se l'hai letta, no? Immagino di sì, naturalmente. Cioè, immagino che tu sei fuori di te, cioè sei o non riconosci proprio il Papa. No, io riconosco il legittimo sovrano pontefice, se no non sarei cattolico. Però se chi siede sul trono di pietro non è papa perché è eretico, è lui che si pone fuori dalla Chiesa, e chi fa esternazioni, l'eresia manifesta, fatte in pubblico, pongono fuori dalla Chiesa cattolica chi le fa, chiunque, sia esso il chierico, sia esso laico, sia esso presunto pontefice. Ma non ho capito perché come direbbe Monsignor Viganò, probabilmente questa ulteriore farneticazione fa parte della sua ideologia. che porta avanti. Ma da perché? Tempo, perché non ti piacciono a te i gay? Non riesco a capire io, Castagna, perché non ti piacciono i gay? Me lo spieghi un attimo. Quale peccato commettono questo omosessuale? Intanto non è vero che è mi sembra un'affermazione troppo forte la tua. Ma insomma, a te i gay non ti stanno simpatici, pensi che siano dei peccatori? Pensi che siano dei peccatori? Io conosco dei gay. Beh, questo ci mancherebbe. Vivono nella castità. Ah, nella castità. E io ammiro, e io li ammiro profondamente. Ma perché dovrebbero... per la loro fede e per la loro scelta. Ma perché, devono vivere in castità i gay? Spiegami. Per non peccare contro il comandamento sesto, che vieta la fornicazione, tra cui vi è anche il peccato impuro contro natura, che è la sodomia. La sodomia. Dunque, secondo te sono sostanzialmente i gay sono contro natura? Sono peccatori. E dunque che cosa attenzione, fare? Attenzione però, non i gay in quanto tali. Cioè quelli che fanno sesso, che praticamente. Coloro che praticano la sodomia. E le lesbiche? Sono e le lesbiche? Sono altrettanto, sono la declinazione al femminile dei peccatori sodomiti. Ho capito, però i sodomiti e le lesbiche non praticano la stessa cosa, non c'è penetrazione tra le lesbiche. Scusami se te lo sottolineo questa cosa, caro Castagna. Certo, no. non c'è necessità di penetrazione per fornicare. Ho capito. Tu è dici una forma di fornicazione. Cioè tu dici anche il bacio tra due uomini è peccato? Se dato con la malizia del... Cioè, non certamente il bacio sulle guance. No, il bacio con la lingua. Due gay che per strada che limonano, ecco, è un peccato? È un'effusione... da condannare. Peccaminosa, perché fatta da sodomiti. Io invece che ho amici e persone che conosco e che stimo... Gay. In quanto gay, dichiaratamente gay, che orgogliosamente si astengono... Non fanno sesso, non fanno sesso. No. Si astengono volontariamente dalla pratica omosessuale, questi qui hanno secondo me, loro vanno in paradiso e io no, perché sono più peccatore di loro. Ma scusami un attimo, amico mio, questi qua si masturberanno, qualche cosa faranno, non fanno niente. No, se uno è gay, non deve fare. No, loro si astengono, sono talmente bravi e talmente puri che si astengono. Scusami un attimo, però i sodomiti sono quelli che praticano la sodomia. Ora, anche gli eterosessuali praticano la sodomia, mi risulta, no? Gottardo, voi praticate anche tu? Mi risulta che il catechismo della Chiesa Cattolica, non a caso, condanna pure gli eterosessuali. Condanna pure la forma di sodomia praticata da alcuni eterosessuali, proprio perché è considerata la tregua della fornicazione. Ma tu, per esempio, non la pratichi? Tu, per esempio, non la pratichi, essendo cattolico? Ma cosa immagino... pratichi? Ma l'hai mai visto? Io sono sposato con mia moglie e pratico sesso con mia moglie all'interno del matrimonio e non pratico sodomia. No. Ma solo per fare figli? Okay. Pratichi sesso solo per fare figli? Perché così insegna se uno deve essere se deve essere proprio rigido. Se deve essere rigido solamente per fare figli, immagino. Ma ha un'età che non è neanche più rigido ormai. Io non escludo mai, quando faccio sesso con mia moglie, non escludo mai la possibilità che possano nascere figli. Quella è la bella. Senta, mi spieghi una cosa, cioè Gesù ha deciso che io non posso infilare l'uccello in determinati pertugi del corpo di una donna. Ma perché deve parlare in maniera così volgare? Perché sei così volgare? Perché la dottrina cristiana si basa sull'insegnamento di Gesù, quindi ci discende da Gesù il fatto che posso infilare. Ma senta, mi scusi amico nostro, io sono anche veneto come lei. Allora io volevo fare il replay di quello che lei ci ha spiegato. Ma io non sono amico suo, non so neanche chi è. Siamo ragione fratelli, Castagna, non lo conosci, dai. Castagna, siamo fratelli di Cristo, sono anch'io battezzato. Vai dritto alla domanda, vai dritto. Sono Alberto Gottardo, battezzato e cresimato come lei e pure credo in Gesù. Vabbè, allora, mi faccia capire bene una cosa. Posso fare una domanda? È due ore che devi fare questa domanda, e dai. Nella vagina sì, nel culo no, in bocca... Questo è interessante, però. In bocca lei mette il gelato, che lì secondo me sta benissimo. E se mi finisce la fellazio, la fellazio non si può praticare? Secondo lei, secondo i suoi crismi? No, non secondo me. secondo la dottrina della Chiesa, niente fellazio. No. Mi scusi, Castagna. Dunque, lei con sua moglie non pratica la fellazio, mi sembra di capire, no? Pratica la casa. Se uno non si vuole far fare, scusi il termine, ma se uno non si vuole far fare un pompino, amico mio, sono affari suoi. Cioè, le posso dire che è una cosa straordinaria. Saranno affari miei. Sì, posso dire che si perde. Cattolico. Ma sì, d'accordo. Cattolico. Posso dire che lei si perde una cosa straordinaria, a Castagna? Posso dirlo? Castagna. Si perde. Posso ripetere che a me non me ne frega niente? Ma ho capito. Mamma mia. Non ho bisogno di questi consigli. Ma ho capito. Ci sono delle zone grigie. Ah. Se io per infilare bene l'uccello nella vagina a fini riproduttivi di mia moglie, gli do due o tre colpi di lingua umidificatori. È peccato oppure no? Questo è il cunnilingus. Sì, il cunnilingus è peccato. Il cunnilingus preparatorio. Non ho ben sentito cos'è che ha fatto. No, il cunnilingus. Dice il cunnilingus è peccato o no? Ma guardi, io non saprei neanche di cosa si tratta. Cioè, lei non sa che cos'è il cunnilingus? Dai, no. Le basi. Cioè, lei quanti anni ha? Dimmi quanti io anni hai? Benissimo quanti ne ho. No, 44, però. Cioè, tu a 44 anni non sai che cos'è nostro. Il cunnilingus. Leccare la figa. No. Leccare la figa. Cioè, tu non hai mai leccato la figa di tua moglie. No, scusa, te lo chiedi in maniera così cruda, perché poi alla fine da. Ascolta, io non rispondo a domande così volgari e così. Vabbè, Castagna, cioè, però, scusa, se mi dice. Io non capisco, ma a te cosa te ne frega di cosa faccio io? Ma no, ma perché è interessante la punto di vista proprio della se uno che dottrinale dottrinale se certo. Il cunnilingus dal punto di vista dottrinale io non chiedo di essere tutelato o di avere leggi speciali o di punire persone sulla base di quello che io faccio con mia moglie come fa qualcun altro. Vabbè, cunnilingus non sai che cos'è, dunque arrivederci. No, non so cos'è. Non sai cos'è, dunque. Grazie non è mai... di avermi vabbè. Chiamato, viva Cristo Re e viva le sue leggi. Beh, insomma, viva vabbè. Le sue leggi, dipende che leggi. Convertitevi e credete al Vangelo. Io non mi devo convertire niente. Ci salva l'anima, altrimenti no. Ciao. Convertitevi, ragazzi, quanti siete qui? Diego, Reggio Emilia, Paolo, Milano, terribile, Alessio da Napoli, Fabio da Latina, un imprenditore che non è aiutato dallo Stato. Questa è l'Italia, hai capito, David? Questa no. È l'Italia vera, qui dentro prolifera, vive e combatte, non nei tuoi salotti del cazzo. Ma e soprattutto sono? Non con il ministro Speranza, che ha scritto un libro, non ci posso credere c'entra? Ancora. Ma ha scritto vabbè, un libro. Storia è che un politico non può scrivere un libro spiegando quello italiani! Che vuole fare. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.